ecco la portante. Ah, già parli allora. Non devo farmi da. Se uno mette la portante lo parla, quello risponde alla stessa maniera, cosa deve fare? Ma almeno fischiato io. Che andiamo, che andiamo. Buonasera comunque. E mi sembra buona la sera, è caldo pure, c'è. Ah, oggi si intende. E dove? È il mio, chissà cosa è. No, ma qua c'è un silenzio, non si dice mai. C'è silenzio abbastanza da me. Mi sa che sarò lo squelci. Prova a chiudere lo squelci a vedere un po'. Dove senti allora? Aspetta, devo chiudere parecchio, ma non intendillo. Ma noi ci sentiamo. Anche se chiude lo squelci. Vabbè. Aspetta, intendi anche il suo rumore. Un be, vabbè, pare che si vedrà che è romanzia. E qua c'è un autoclub che sul cortile ed è fuori, no? E ogni tanto mi crea un po' di rumio, capito? Quando si attacca con l'autoclub in questi apparecchi mi crea un rumio, capito? Infatti, anche da così il rumio tira. Però non sempre, ogni tanto lo fa. Mi stavo guardando il presidente Grant 2. Aspetta, è tutto digitale. Ma hai visto che apparecchio è questo? È bello. È bello. È l'ultimo uscito quello lì, Sì, perché io ho il Grant 2 versione 3. È il primo che è uscito, l'altro che hai visto tu è l'ultimo uscito, è bello quello lì. Ci so dire che c'ha tutto quanto c'ha, non ne manca nulla. E se vuoi lo puoi richiedere anche con le alette dietro. E quanto costa? Un be, 285. E vuoi una cosa buona da fare. Anche questo, quello che sto io costa la barca di quattrini, ma un bene, pure 330, 340, una cosa del genere. Marino, non gli manca nulla a quello, c'ha tutto quanto, c'ha tutto quello che può avere un apparecchio. Ma c'ha anche l'SSD quello, c'ha anche le bande laterali anche quello. Ogni banda A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tutte le sue passe. Fai tu 40 ogni banda. Ma sono 10 watt quello lì, con la modifica sono con 10 bande, magari senza modifica sono 4 watt, già l'hai letto. Solo che qua adoperandolo in Italia lo puoi adoperare solo con 40 watt, lo puoi adoperare che è omologato. Con 40 canali, capito? 40 canali con 4 watt, poi in Italia lo puoi usare. Quello lì, lo metti a 4 watt, lo metti perché c'ha un affare che va a 4 watt. Allora fai andare a 4 watt con le altre bande pure. No, aspetta, in USB va a 12 watt. Bello. Sta conviene a chi non ce l'ha, so. Ma anche 285 euro per un apparecchietto. Provo a guardare quello che sto io. Presidente Lico 2 versione 3, quanto costa? Perlomeno prima quanto costava, adesso non so se è abbassato oppure no. Provo a vedere un po' quanto costa. E qual è? Quello con i tastini bianchi? Oh, sì, che è tutto colorato. Presidente Lico 2 versione 3. Se lo va. Quello con il manometro rotondo. No, c'è la orizzontale per quel centimetro. ma è tutto illuminato, anche questo, anche quello lì c'è tutto qua. Prova a stare acceso il computer e vedi un prezzo qualche cosa. Aspetta, no, tanto ce li ho tutti in serie, ce li ho, aspetta un attimino. Hola, hola, hola. Attenzione, binario 23 cambio. Hola, hola. Attenzione, binario 23 cambio. Mari. Dimmi sto. Presidente Lincoln 2 mi dà, non mi dà altro. Ma è quello tutto colorato. Sta un saccaccio i tassi e... c'è 3 e 5 manopoli. È quello cromato, mi stai dicendo? No, non è cromato, c'è il portarino con tutto in plastica, e sai, non è cromato. Vabbè, ma quello tipo alluminio? No, è il colore quasi nero, è da marroncino. No, non me lo dà quello, mi dà il Linco 2. E poi mi dà quell'altro presidente normale, presidente, che c'ha un sacco di tasti, però c'è scritto solo presidente, ma non mi dà altro, mi dà quello nuovo, mi dà, basta, non mi dà altro. È strano, perché c'è anche quando cerchi gli altri apparati, sulle pagine ti dà questo, quello lì, dai, ti dà il presidente Nico versione 3. No, mi sta dando sempre questi presidente Linco e quello presidente Grant 2 e poi mi dà quell'altro presidente che con i contatti tassi. Non me ne dà altro. Che Lincoln 2 costa 260 e poi quell'altro costa 180 euro. E quello che so io costa 200, allora, 320 euro, allora l'ho pagato, io mi sono lasciato, sto lì, conservato, e l'ho usato 15 giorni, non di più, l'avevo tolto perché non avevo posto, e mi sono lasciato, adesso il presidente Rico 2 versione 3. E via, adesso se mi dai il tempo accendo e te lo mando sullo scaffo. Sì, a vedere se lo trovo. Dai, prova, tanto lo cerco io qua, là. Oh, dottore. Marì. Ha trovato chi? Ho trovato questo, presidente, Grant 3. Ho trovato, con uno smitter grande. Guarda che te l'ho mandato sullo scaffo. Aspetta un attimino a vedere. Marì. È arrivato. Sì, no, l'ho trovato anche dove 344 e 01. Quanto? 144 e 01. 144, no, non è possibile 144, Cosa più di 300 questo qua? Come hai capito? 300 344 01. Ah, avevo capito male. Infatti costa un becco, e quello ce l'ho io, capito? È dentro la scatola. Ce l'ho, è nuovo, la cosa l'ho usato 10 giorni, non riuscire a me. Ce l'ho quello, costa la base, però c'è tutto anche quello, c'ha tutto. Ma questa mi drupo, gustami, scatta. Non si può spendere su un apparecchio del genere. Vabbè, la borsa io l'avevo preso, sai, vabbè. Poi non lo sapevo posto, l'ho messo nel placcato, ma sono apparecchi belli, dai. Come è bello anche quello presidente grande, però è questo è molto migliore, dai. Sì, molto migliore. Lo so, ma cazzo, bebè. Sono un bedinina, non te ne fai nulla, quindi un bedinina. E poi la salvo per me una batti. Ma se la pensa di tutti, però ha avuto un impianto e si può fare come faccio io. Capito? Mi è piaciuto, anche se non l'ho usato, mi è piaciuto e me lo tengo e non le dà. Anche se c'è dentro la scatola che se ne frega, però mi piace averlo, capito? E io l'ho fatto la spesa, però non lo dovevo fare, però l'ho fatto. Se lo so. abbastanza, già mi basta questo a me, io stavo solo guardando così e basta. Sono entrato in coso e l'ho visto e stavo guardando e boom. Stavo a fare spese grosse così, boom, basta, no, non mi posso più. Sì, tengo questo in coso, omologato e boom, non uso altro. Faccio, ma oggi non so dire più. Faccio così la sensazione più. Io sto sempre guardando, dai, non fai altre cose di qua, a me lo guardo, però non è che devo prendere altre cose, perché non faccio niente, non faccio niente. Io non l'ho preso, io ho preso due di quelle lì, che se ne faccio, sta poi da stare dentro la cazzo, è da bui magari, vabbè. Già sto sempre conservati bene, così guarda. Infatti, no, l'unica cosa è questo qua è boh, no, io solo questo, omologato, e ando con fisso, è boh. Ah, che presidente è grande, è omologato, so. E puoi usare sia, sia normale, e poi anche di quell'altra maniera, capito? Sì, quello sì, ma sono quasi 300 euro che se devi rampa. Beh, infatti, belli sono belli, perché tutto colorato, io stavo cercando i colori, e sta tutto, sta tutto. Lo scanner NPL, ecco, Roger, il canale 9, indice, caro Splinti, poi trasmetti un punto in un canale e ricevi un altro canale, oppure viceversa, c'è il Mori, c'è le bande, c'è il Vox, c'è il menu, c'è la memoria, e poi c'è c'è tutto, ecco, c'è tutto, per dirti, no, è completo, costano, però sono completi, ecco, io l'ho preso, però sono buttati quei soldi, capito? Infatti ed è così, sono buttati, sì, no, non te lo tieni più che altro, lo usi uno, due volte, e poi cosa andrà a fare? Io l'avevo preso al Regno Unito, l'avevo preso 10 giorni. Mi arrivato. Sì, quello sì. Quello sì, no, già è, già va bene come cosa, ma è il fatto che se devi stare lì a cosa di a trattarlo, a lasciarlo diventare a cattura, ma te ne vai in onda. E boh. Ognuno ha la sua scelta, Gian Maria, ognuno ha la sua scelta. A chi ti piace il doghito? A noi, a me piace il doghito e a te piace il doghito. Allora, però quell'altro di 2000, quello è piccolino stesso, è piccolino, però è complesso, capito? Beh, è 40 canali, va bene, non mi ed è che esce bene, escono bene, anche il tuo esce bene, però quello là, ripeto, non mi piace l'arrivo. E poi se si può mettere anche un altro microfono, magari forse l'avrebbe messo più, più bene la radio, capito? È più bello infatti, sempre che non si può mettere, ed è un macchietto. Vabbè, se ti assiste se la prendo, l'ha fatto bene ugualmente. Sì, magari cambiando, forse cambiando la capsula, guardando come la capsula, cambiandola forse migliorerà, boh, non lo so. E cambiate che cosa? Cos'è per cambiare il libro, c'è da cambiare i dentro? Non lo so, io prendo il microfono e guardare dentro, ma non penso che si cambia di fare una cosa del genere. Ormai va chissà se chi si idratta. Ma sul microfono non c'è niente. No, il microfono non c'è niente, il microfono è fatto così, è da parecchio che capisci? Forse che vorrà aperto leggermente il macchine, per aumentare meno la radio. Solo quello si può fare, penso che si può fare altro. Però insomma, lo usa così e va bene ugualmente. Già ci capiamo ugualmente, insomma. Sì, a voglia, certo. Ma il macchine non è per la recinzione. Per spiegare per la ricezione, ma chi è per aumentare la radio? Ma mi pare che Chichino non ce l'ha. No, forse sì, già, forse ce l'ha, non lo so, forse deve schiacciare pulsante, mi pare di viaggia. Deve entrare sul menu e cercare il Chichino, capito? Aumenta la radio il Mike G, per spiegarmi sta aumenta il segnale, capito? E infatti già è così. Bisogna cercare il Mike G, capito? Non fa niente, perché quando si rigettano gli apparecchi bisogna cercarli, capito? Per cui aspetta, per cui bisogna che tutti ce l'hanno, ma chi è ce l'hanno tutti? All'interno specialmente questi qua adesso sono digitali, e bisogna entrare sul menu e trovare il macchinino leggermente aumentato. Se ha 5 lo metti a 10 e va bene. E infatti, è così. È così, e allora? Ce l'ha fatto per giro in bicicletta, non hai idea, una mezz'oretta c'era, mi sono anche stancato. È meglio, più ginnastica che hai fatto oggi, almeno così le gambe si sono mosse un po'. Stai al massimo a fare movimento per le gambe, capito? Certo. E poi cambiando il rapporto, non so come cammina bene, certo. Il rettiline, amico, te la lascia andare, uia! infatti, così, deve cambiare il rapporto e ti viene più leggero la pedalata. Allora, più grande è più cammina. Poi, se la metti tu con il rapporto piccolino, cazzo, la pedalata è più pesante, ma fa più giri, capisci? Fa più giro, sì. E poi se la metti più pesante, pedali pesante e cammina di più. Via Calò Felice deve scendere la mazza. Te giurai, Gio Maria, arrivi due a me. Cos'è a Toledo, di tutto, cos'hai detto? Certo, vai via Calò Felice, vedrai che deve scendere la mazza in bicicletta. Meglio questo che stai scomandando, cosa vuoi fare? Ecco. Sì, che c'è vita senza speranza. Allora, finché c'è vita c'è speranza. Più si pedala e più si va avanti. Mamma mia, già mi pesa a me quello che c'è la spesa, figurati tu. La tappa invece è più leggera, perché via Calofrice in pratica è messo su un fianco. Hai capito? C'era la parte alta e la parte più bassa. E poi ci sono. Avete parlato in due. 8 ore. Prende Gio Mario il riprim. Ho messo i 7 tipi di bicicletta e stanno doppia moltiplica anche. E infatti è così. Più pedali, se la metti più bassa pedali di più. Se la metti più alta pedali di meno. E infatti allora. passo lei lo cambierà a piedi, che farò bene ai muscoli, così è. E allora, io cammino a piedi, è bello che c'ho la sigaretta in garage, che ce ne sta vivendo. L'ho pagata mia madre, nella moglie di casa, quasi 200 euro l'ho pagata, e ce l'ho in garage buttata, nuova. E l'ha buttata? No, ce l'ho in garage ancora, l'unica cosa che mi è, che ha fatto la verità mia madre, cioè, da prima là, mio fratello l'ho comprato, la... allora costava un sacco di soldi, lo ricordo, costava quasi 300 euro, costava. La città mercato, aveva passato in quattro persone il capello là, perché pesava più di 30 kg. Ho preso, l'ho prezzato una mezza con mio fratello, ha preso, l'ha regalato a mia zia, ha regalato, e ci si è bussato, nuovo, se no l'ha preso per se no due volte, non di più. Tutta là, figurati tu. Noi avevamo le mountain bike nuove, sempre appiccate, il magazzino, e l'abbiamo regalata, ti puoi immaginare, e io non le ho mai toccato, e l'abbiamo regalata, e ha già fatto lungo a chi lo vera più lungo, il magazzino, capito? E avevo anche il califone, e l'ho regalato, anzi, se l'ha portato via mio figlio, il califone. Cazzo, e anche quello è nuovo stesso. E ma no, io, ma adesso mi è venuta la voglia della bicicletta, e, però è elettrica questa, non è a pedale. Ma che a pedale no, manco a pensare a prendere una bicicletta del genere. Otto, No, io non convengo oggi, no. Se vuoi pigliare la bicicletta, girarmi la elettrica, spenderà qualche cosa, ma almeno pedala leggero. Sì, a fare i panchi e ma con lui va, no, questa qua che sto dicendo io c'ha ce n'è una che costa 3.000 euro e più pedali più si ricarica la batteria, quindi quella del comune. Ma allora la spesa 3.000 euro per la bicicletta, lo sa Giovacco, cazzo, oh yeah. Chi si che ne prende nel zinco per la bicicletta da corsa? Quando era giovane l'ha avuto 3 o 4 bicicletta da corsa, una me l'avevano rubata. Sono andato a Cina, ma ci butto in Forza Santo Giuseppe, l'Agusteo si chiamava allora. Sta giù buccia sopra, e su da Cina per la bicicletta, roba la bicicletta da corsa. Budino all'Eriada. E dalla volta non l'ho... Oh, bicicletta, va a capezzare. Ah, vabbè, ma sto da capo la bicicletta, elettrico, a giubizia. Cazzo, era in offerta, me la so presa. Che se ne frega. Ogni tanto mi faccio un giro e mi fa uscire, cosa mi fa? Infatti, ed è così, l'unica cosa che si può fare è andare a pedalare. Faccio un giro e un bel niente gira il pigliendo va a salire al centro, gira e fa e cammina, guardate che macchina è. Te la sto dicendo, mi hanno fatto vedere stasera una fabbrica in Italia, italiana, sono costruito tutte le biciclette elettriche per dire che c'è uno smercio enorme in tutta Italia, capito? Anche all'estero le sono mandato e quelli all'estero le sono portate qua. E questa fabbrica italiana sta costruendo biciclette a ruota di collo di tutti i tipi. Stasera l'hanno fatta vedere. Sì, perché la bicicletta elettrica sta andando moltissimo e poi risparmi più di una di un coso. Di un motorino. Beh, perché c'è. Non per la miscela, no? Tocca per la miscela, capito? Per cui carichi solo la batteria a casa, basta. E pedala, ho visto che anche in salita pedali va bene, ma l'aiuti però cammina, mentre si a pedalare, già cammina ma ti sa che troppo, senza essere elettrico. Quattro accatti, proprio per far così, per fare movimento. Però con la bicicletta elettrica, pedali, sempre e andi. Ma qui non gli mettono il passo anche a lui. Compare già di là. Sto dicendo, vedete che gli mettono il passo adesso, anche la bicicletta elettrica. Così anche le moto elettriche, quelle che non c'è bisogno di assicurazione di bollo. Tu vedete che c'hanno bisogno di soldi. Tra poco bisognerà incentivo per comprare la bicicletta, per non usare la macchina, per non inquina, pensa un poco. Ma vedrai adesso, tu, vedo tutta l'idea che fate, ma magari tu prima si ribesa, poi pure il bollo della bicicletta, a metà dimmi, non stavo a passare, se passai, metto anche il bollo per la bicicletta, oppure l'assicurazione, a metà dimmi. No, l'assicurazione sì, però il bollo non si può mettere su una cosa elettrica, non si possono mettere queste cose. Ti diranno a metterti direttamente in un'assicurazione privata, ti diranno di mettere, però non è a cosa di proprio di Tugoso, ma ci arriveranno anche a quello, ci vuole il battasso, però mi pare di no. Ehi, le inventano tutte, sta tra quelle, per i soldi fanno quelle altre, so. Avvio. Quella che usa Antonio la bicicletta, quella già non le paga a bollo, vero Antonio? C'è la moto elettrica, c'è, già te l'ho detto, quella che stanno facendo vedere sul TCS. Non paga nemmeno bollo l'assicurazione, tanto meno ci vuole niente. La prendi, la compri, va avanti e indietro, dove vuoi, ti siedi e c'è la manina, una parte manina dall'altra. E le tre ruote, poi c'è una addirittura due ruote, poi c'è in due, quindi figurati tu. Antonello, hai visto cosa ha detto Antonello? Già l'ho sentito, sì. Già sta tranquillo che già non mangio di bigliai io. Secondo me la partita non trovo né moto né nulla, ho solato. E tutti i bimbi, vaga per lì. Ma per quello che non lo sto spiegando io, perché c'è una parcheggio di 5 minuti in un ciclo, anche con la catena ti può trovare la moto, sarebbe la notte. Sai come ti chiuso di assadire che entro a dare i buchi, l'ha lasciato la motoretta a fura. Cosa l'ha lasciata? 5 minuti. Puttata di tirani, cazzo, finché gli si buttano. Si tirano in buttata, deve darci l'hanno in buttata, andate a motocarro. Ma le guardie gli hanno buttato? Oh, deve darci, quando esci, dice, ma la moto si sta in buttato. Era una moto elettrica, era. Addirittura. Cazzo, furata così. Allora, ne hanno furata. Dice che l'ha vista uno, ha detto mi che vero padrone dentro, mi ha cassino a tutti. Ah ma quando è si bigliaro a far vedere domani, si bigliaro. E che dà, ha pigliato il numero di Darga dello motocarro, ha pigliato. Ha dato il numero di Darga. Così che è l'auto in coppa, no? Sì. E dovrà dire, dice mi ha gettato a te, ti dà il numero di Darga. Figlia dirà, vai sei con i vigili urbani o con i carabinieri e sei indietro molto. E allora? E oggi per i soldi fanno quelle altre là, purtroppo così. Ora, e tutto frega, e non che quasi niente, il continente e sulle grandi città, l'hai visto? Cazzo, bisogna tanche dire di bicicletta, curali, si ribocciare che da voi si rivendere. Cazzo. Infatti, purtroppo, in Italia, per troppa di chi sa niente, tra comunitari che si fa un bel fame. Dai, tranquillo, quello di Antonello non la fregano più, vero Antonello? Io già ando a peli, ad un tram, la bui, l'unica cosa che posso fregare è il pisello. Io la posso fare, capito? A gratis pure. Di certo non mi metto i problemi per la moto, no. Sono stato spaventato, ogni volta che entravo in qualche bar, qualche cosa, lo stavo sempre fuori a bermi la birra, non esisterò. Basta, non me ne ha fatto nulla. Oh, vabbè, pure la voce me l'ha impazzita la moto, un 125 guzzi. Sì, ma parlo 50 anni fa e più, mi sembra, allora. Allora, l'avevo presa di Antemacco da Secchi, allora c'era l'Alfa Romeo, era in via Roma, dove c'erano i pompieri prima, proprio all'angolo lì. E in via Roma, Secchi era in via Roma. E mi sono presa, lo tornello era, 125 della Gussi, certo. E ho preso, avevo dato un anticipo, l'avevo preso a rate. Appena ho finito di pagare, la notte l'ho posteggiata, lì domani mattina esco per andare a lavorare, dove era più la moto, e non l'ho più avuta, non l'ho più trovata, che era nuovo, e il libretto abbiamo trovato, hanno trovato il libretto, ivi, in un bifio di rubrato, però la moto in nessun luogo, boh, così che, una bicicletta e una moto male buttito. A me invece tanti anni fa mi hai buttato una moto, la giotta a buttare, 5 minuti basta per pigliare il giavi, per un magazzino. Mi vita che si sono in buttata e non hanno fatto carriera, vero? Anche la chiesa butta in vita. Le fregavano allora, le fregavano di tutto, fregavano, come adesso, forse è peggio, prendono tutto adesso. Boh, avevi 30 casi con la gente dentro, se sono attento da ammazzare il muro, capito? Oia, per carità. Meglio la ciappa lì, che secondo la cacciappa perde dalla ragione, basta la batte un duccio muro. Sì, Gio Maria, a chi faccio di mesi fa, e no, che noi abbiamo sentito di entrare da chissà di sopra al secondo piano. Ma ho detto chi vi noi. Ha chiamato il carabinieri, e l'hanno domandato per cosa erano i venti. Dicevo, stiamo controllando il palazzo, ma è una fa cosa. Mi ha dato una giusta. Ecco, anche quando hanno tentato, fatta la mia figura in casa, con casa, noi eravamo rientrati, come sta inteso che l'aveva sentito lui, ha ribriccato la ringhiera, un assaggio quando ha fatto, e sono fuggiti, se era a prendere in casa, era a prendere, capito? Puoi immaginare? Allora noi, che c'è il secondo piano, non c'è che entrava, ma che c'è il secondo piano, ma per adesso, perché c'era la gianna blindata, quindi non per adesso io. Al carabinieri ha domandato a chi sapete cosa erano i venti, diciamo stavamo guardando, ha detto se non cammina si erano imbucciati sopra, ma per lui l'ha già avuto. No, che hanno lasciato il primo piano, sono entrati nella Liferia, l'Alghero, sono entrati e l'hanno girato, hanno imbigiato un mese di roba, l'hanno imbigiato. Certo. Sono stati dalla ringhiera che è bassa, come se ne fatta a stati a sopra al buongiorno, sono entrato a dritto e lui mi ha corrotto, il rumore l'aveva inciso, ma anche si pensava che era le ghicce gatta, e se no già l'abbiamo fatto fuggire, però sempre il rumore pensavo che era niente, capito? Che era il Madroni, invece era i ladri, hanno fatto un poco di baccano, capito? Second goal. Forse già ne tutto, forse reggia, non fa fare dai. Ma ci appena abbia troncato l'anchi, dice che ha giù dare cari. A me figliolo, il Santiago Monte. Ah, vero. Sopra il Santiago, allora, a pian terreno. Certo. Era coltivato a poco, è trasferito ai chivi. E viene a dare, Maria. Era il 9, ma dove? Viene a dare, era. Allora, oltre a dare, era il 9, marito moglie, figliolo. Certo. Da voi ci siamo stati e chi senti pure un telefono. Ma tutto mi sarei cavato a casa, a tema che da cammino tutto mi sarei cavato. Non mi ho dato la casa, non mi ho dato. Penso che sono entrato in casa dal cucini, hanno bricato dal buongiorno, sono entrato, era molto burrato, mi ha due giorni la manna, come stava le faccia a fare la sigla che andava dal razzo con il gioco, pure tutto si è buttato. Ecco, bello. è proprio delinquente, ci appena ne aveva troncato l'anche, ne aveva troncato. Ehi, a me figliola, lasciami figliola, ma te si crabulattari. Catta, si è fatta la casa, si crabulattari, e l'ha finita, se ne c'è della cosa, poi c'è tutta la biancheria, le cose di così eccetera, se ne c'è ancora, non erano entrati di Renzo, però se ne c'è della roba. Di farali e la stampa di più niente, pure l'autoclav ragazzi l'hanno ristaccato, si può immaginare, pure l'autoclav l'hanno ristaccato. Ma chi c'è, no, chi c'è nei zingari che si attaccano a tutto? Dove voi ci hanno stati di crabolata? È la roba dei bestini, pure se l'abbiamo ricavata tutto, sei capito, tutto. Un po' di roba la pensata, insomma lui ci hanno fermato di cose del genere, ma se si attirano i puntini di roba, avvio, rispetto a me, ma i puntini della bicicletta era morto. Da poi una volta, sono entrato in magazzini, no, che allora abbiamo California via. E non so come si è stato, hanno inciappato la visiera e molto fuoco. E infatti aveva tutta la roba di campeggio, tutta ribruciata, capito? Si può immaginare. Certo, non lo so, ma il fatto che si vira le cose, lascia a Piedrento. L'unica cosa che deve fare è farne rifura con un fucile. Sicuro, magari. No. Sai come te chi su? Si ha fatto la vita, si l'ha fatto. Altro che. Il burista ti ha detto che è caggiuto. Fatto come arrebbe che è caggiuto, l'ha detto. Purtroppo non è così, già lo sai. Oh, iaia. No, è caduto lui. È caduto lui perché ha messo. Stava scappando, voleva saltare la ringhiera, hanno predeciso e ha preso bene i mari e si è fatto un gabbo a terra. E si è affacciato il gabbo. E fece un maedo. Un po' visto te l'ha detto, avete cosa era a vendi. No, stavo controllando io. E cosa stavi controllando? Tornate in casa di chi dai controllando? Troppi attorista aveva va. Che fatti? Perché cosa che si può fare, se vai a caccetta ne dagli un guto, ne dagli. È meglio la ciappale che da voi si fa che cosa la ciappi, capito? Vai! A che secondo me cosa succede, poi la bacia ragione, da voi basti pure un doccio, capito? Ecco come te la passenta. Però occhio! Sì, certo, andiamo. È proprio una cosa che non è desiderabile da chi si. Certo. Ma te chi c'ho il suo zingaro che farà dalla base di Bacchigio, ogni tanto apre qualche casa in chili. Ma non so se scende. Certo. Oh, ma le ha mandato la fotografia e ieri Santa Maria Pisa, in un brimabiano, in un darrastino, c'è una moto riata. Mi hanno mandato una foto, cazzo. Chissà cosa hanno fatto questa moto, cazzo. Le ha dal rastino, ma ce l'hanno fatto a stasera che vi ha le alla ivi. Ma le sale della mazzata, Gian Maria? O in ascensore? In ascensore? In ascensore? Come se c'è un rastino a parte fuori. La moto l'ha attaccata a facciata, a piccata e a rifare il zarrasino. Ma alla ringhiera è attaccata. Eia, cazzo, cara che me la manda, forse è Luca che me l'ha mandata, Luca del Monte. Ma vedrai questa fotografia, anche se che si è finito il bagno. Niente, senza marire, mi vedi, ma attore. Sì, mi tutto di me, di tutto bisogna. Mi sono portato molto su all'ultimo piano io con la litica, quando me la compro. A me ci fanno 5 piani di scala e la metto sotto al tetto, vogliono se salgono lì. Per carità, ragazzi. Avvio. Di tutto fatti, di fare di là, e di là una ricavatuccia, un geco, tutto. in diretta, ci sentiamo domani. Oppure dopo. Statemi bene, a frappè. Ci stiamo andando, Antonello. Ah, fammi un giro, volevo fare dentro casa a girarmi così, i potenziometri, no? Mi valora da ricco, mi bevo la birra, poi torno a casa. Sono stato l'altro giorno a casa e sono già diventato nervosa quando mi... l'apparecchio, la casa e cose del genere. Mi spendo 2 euro, ma fanculo, per me lo passo un'ora e mezzo e poi sono tranquilla. Sì, anda bene, anda, vai, vai. Ci sentiamo, Antonello. Riprendi il giornale. Leo Ciro, Antonello, che non ha sentito più. Prima si fa sentire di... Ah, ma c'è un bambino che non intendo, È un PMR sempre, lo sai, che non state pensando in PMR, come fai a sentirlo? Il discorso è quello. Lui lo sa che la 27 provvisoriamente dobbiamo sistemare l'antenna e quindi entra comportato in PMR, solo che PMR non entra più nessuno e sono tutti impauriti e quindi a un certo punto ha lasciato perdere anche lui. E infatti perché non si muove e prima si muoveva ha abbandonato tutto e dopo E infatti solo con noi possiamo andare solo in coso con il portatile per calettaga da vinegar vabbè. Stiamo bene ugualmente qua, dai, anzi se mi pochi, buoni, e tranquilli, dai. Sura carino per il sciuro, non per bacco di monico. Sono la sera così. Dalle 6 in poi qualcuno si affaccia, qualcuno che. Niente. Saranno 3 o 4 e basta, boh. Ma sentami per me anche voi, qual è il problema? Io ce l'ho sempre appresso PMR, me la porto sempre appresso, quando esco ci parlo, se ci vuole il culo, se no a un certo punto se la tocca in quel posto e va a far cuffia. Io ho 4, figurati. Vabbè, magari la senti tu e là se no non la senti e hai rimusi tutto quanto, così che siamo sempre chiusi. Per carità, vabbè, purtroppo è così, però alla foga un tempo, mai faccio manco un'anima, ma ci sono appena rubare anch'io, Martesi, prima era piena, ma finisce un poco, di così, non di più, o no, to? Non c'è niente da temere, italiani, tanto siamo tutti inculati, a un certo punto non c'è niente da temere. Roma, Milano, Torino e Zero che cazzo sono pieni di la 27. Ma che cambia il coso col Movimento 5 Stelle, c'è entra lui. Non ti preoccupare. Cambieranno tutte le leggi e vedrai cambierà tutto, cambierà a casa. Non so che c'è il Movimento 5 Stelle, c'è un tipo di uccidi, e anche mio cugino, senza saperlo. Si chiama Tony Bittau, è il senatore. E poi dici che non fai conoscenza a due. No, l'ho scoperto da poco la verità, perché lui c'è nato non solo io, l'ha scritto lui. Se lo leggono, se lo legge lui diventa senatore, quindi. Bisogna vedere se andiamo alle elezioni o no. E di ozieri, perché di ozieri questo. Sto dicendo, bisogna vedere se continua questo qua o se andiamo alle elezioni tra poco. Anche se andiamo alle elezioni non cambia nulla, te lo sto dicendo. Non cambia nulla, perché le foto sono solamente due, anche se Salvino dovesse fare qualcosa di strano per dire fare elezioni per avere il pienone, non lo avrà mai, hai capito? Quindi a un certo punto deve fare per forza alleanza con due persone, lui e l'altro, poi in Forza Italia non c'è da più niente, hai capito? si vede adesso, i scogli italiani non sono tonti, quindi a un certo punto mi prendi quello, prendi quell'altro, e sarà costretto a prendere quella persona lì, non è che comandano così i tedeschi, i tedeschi sono morti, anche una mano, non sono un altro, mi tengono cacciato del genere come l'ho scritto. C'è andato anche la mano, quindi a un certo punto, visto, a volte quando dicono cazzate, la gente si incazza ancora di più. Quindi non ha aiutato nessun partito che non è populista, anzi, gli hanno aiutati, hanno fatto ancora peggio. Pomponio presidente. Magari, mi avesse fatto presidente, guarda, e avrei cambiato immediatamente la... questo cavolo di legge della concessione l'avrei cambiato immediatamente, te lo dico io. Cos'è perché se il marchio c'è deve essere per forza, non esiste quello. Marco. Ma per 12 euro all'anno, quindi stai piangendo, ma vai. No, non tengo niente, lo sai io da quando c'è la concessione, dal 1987. E addirittura io quando ho fatto la rinuncia della concessione e dell'apparato l'ho fatta nel 1987, ho trovato io il foglio, ti ricordo se faceva la rinuncia in questura, il foglio fatto in questura che avevo rinunciato l'apparato omologato, figurati tu se me ne frega poi tanto a me, quando vengo a casa c'è quella, c'è il resto, quindi non posso rompermi le balle per niente. Io ce l'ho la 1987, ho fatto solamente il rinnovo di quella concessione, ho fatto altro. Dello stesso apparato, quindi tornato 34, esce, omologato. 1987, ho visto il foglio ieri, l'ho fatto in questura, quindi ci voleva la luce in questura, beh l'ho fatta. Tanto mi fa e l'ho trovata, quindi figurati tu se c'ho ragione o se c'ho torto. Però non hai mai pagato, così è. Sì che ho pagato, caro mio, sempre pagato la concessione. 12, anzi prima era 15 euro al mese, all'anno, adesso sono 12 euro, sono 24 euro, 1000 lire per esattezza. Anzi 30, non 24. Allora vai a lui, aspetta che un attimo che si vuole mettere le patate. Ci arrivando subito, devo sempre pagata la realtà di una concessione, se no sono rimasto a peli. E le ricevute da metterla a parte, devi farci vedere anche le ricevute se è vero che hai pagato, se no ci facciamo mandare il clip con dei pagamenti se mai hai pagato. Buonasera Marco. E non solo Antonello, quando veniamo vogliamo trovare la concessione appiccicata alla porta. Ehi, guarda che ho fatto anche la foto su Facebook, anzi te la mando stasera, anzi su WhatsApp, e ti faccio vedere una cosa, così vedrai che quando la vedi prendo la rincorsa a tutti quanti. E mi riporto magari tu dice questa foto devo farla vedere, dice a mamma che questa foto è molto bella, mi ha detto, capito? Aspetta un minuto, poi te lo dico. Mamma mia, che abulotto che fai Antonè, parla piano. Comunque la concessione vera l'hanno istituita mi pare nel 74, no? Gio Maria, te lo ricordi tu? Le ho rinnovato parecchi io, perché prima si rinnovavano, no, poi invece bastava una volta solo e basta, capito? E te li avrò tutti e vi da cercare, immagino un po' quei bambini da allora, ragazzi. Certo, in 52 anni più, più di 52 anni ci sono io. Cioè, con quest'anno penso che c'è 53, 54, ti puoi immaginare. Sì. Oh, prima eravamo però pirati, dopo ci c'è la concessione, allora abbiamo fatto tutti e ho sempre pagato. Dovrei avere anche tutte le ricevute, capito? Nascoste dalla parte, capito? Tutte, due di razza di busto, capito? Oh, yeah. Aspetta, tu ce l'hai la coppia dell'escopo se c'ho io. Allora, abitavo Antonello, fatta nominativa denominato Alessio, sede in Sassari, via Vizzuto 26. Perito Pilas Salvatore. Allora, a me ne ho trovato, se lo dico subito, aspetta. Allora, stazione Radio CB, debit, eccetera, eccetera, numero 2560, delta è 7 dell'82, figurati tu. Effettuato è detiene i seguenti apparati, dice trasmittenti naturalmente, di due per le potenze non omologati. Allora, siamo i poni, il Tokai, il poni 297, il Tokai 5024, l'altro Tokai 5024, figurati tu, in pratica ne avevo messo 60.000 lire di verbale, apparati non omologati in concessione. Io dovevo, mi sembra che dovrei avere ancora la SWL, che allora la davano solo a Roma, la davano, adesso la fanno, anzi, mi sembra che adesso non ne danno più, la facevo pure a Cagliari, la facevo, mentre io l'ho fatta a Roma, c'avevo il numero 56, il numero della concessione, fatta a Roma, ragazzi. Oh Marco. No, io l'ho fatta nel 90 a Cagliari, però non mi ricordo il numero di SVL. Allora, adesso è facoltativa, non è obbligatorio avere nulla per ricevere, però chi vuole mandare le cartoline SWL come ascoltatore ai radiatori la può fare, e quello credo che valga come nominativo quasi, no? SVL numero, capito? Poi c'era anche la denuncia in questura della radio, lo sai, noi non ne sapevamo niente, e poi ve ne racconto una, vai squalo. Io ce l'ho, la prima concessione o la seconda, non me lo ricordo, ce lo dovrei avere, infatti, è firmata dalla questura, c'è il timbro anche, sì. Bisogna fare la domanda anche a questura che tenete queste apparecchiature così. Sì, già mi ricordo già. Io la denuncia fatta in questura dell'Intec 34 canali, quella lì, ce l'ho anche io, ce l'ho. Infatti l'apparecchio non lo butto, lo tengo come cosa, perché la denuncia è sempre valida a me. Ah, quella. No, adesso non serve più. Non è obbligatoria per gli apparati, cioè per questi apparati nuovi. Oggi cambierò il modello delle cose, no? Non esiste, no, quello. La concessione è quella, le passi sono queste e basta. Sai quanti apparati ci ho buttati qua, Marco? Quel pezzo da mirino, con il battino, modello di presidente, camorazione, eccetera, eccetera, dico 334, codice PT, eccetera, eccetera. Sono parecchi di quelli, quindi non... A parte uno, che mi è capitato che ce l'ho, di quello non c'è scritto niente, c'è scritto solamente, è strano la cosa, Max, numero di serie, cioè Max modello CM10, numero di serie, vabbè, c'è la... come si chiama la sigla, e poi c'è scritto CE0678, poi c'è scritto E11034484, Made in Taiwan, anzi Made in Taiwan, in Thailand è la verità, non Made in Taiwan, tutto lì. Primo, avete parlato in due. Antonello, sei fuori frequenza di 1,5 kHz almeno. Sei tutto fuori frequenza. Poi abbassa la radio, perché io ti sono tutto non ne capisco niente. Abbassa la radio, non sei capibile quasi. E perché balla troppo in fretta, pari si affoghente, Antonello. Io dovrei avere anche la denuncia e tutti gli apparecchi che avevo qua, è portato in questura, capito? Timbrato e firmato. avevo fatto quella denuncia pure, capito? E c'ho tutto, dovrei avere tutto quanto, basta a cercarli se già li trovo. Ehi, allora adesso vi dico quello che aveva successo a noi. Abbiamo fatto la prima concessione nell'85, no? Modulavamo già dall'84, ma prima concessione nell'85. E nessuno ci aveva detto che bisognava denunciare in questura al baracchino. E noi abbiamo fatto solo la concessione. Dopo un po' di mesi arriva una comunicazione dalla questura. E c'era scritto: la signoria vostra è pregata di recarsi presso i nostri uffici per discutere di affari di polizia. E mamma ha detto: ma cosa sarà successo? Cosa non sarà successo? E invece poi andiamo lì e c'era questo bel fiore, no? Questo in questura, bel fiore, pare fosse un barisciallo, c'erano ancora i vecchi gradi, che gentilissimo ci ha spiegato che semplicemente dovevamo denunciare marca, modello e matricola del baracchino, era omologato anche quelli non omologati, però gli omologati bastava non usarli, capito? Certo, così, gli omologati, anche quelli non omologati, basta non usarli. E abbiamo messo i famosi baracchini che avevamo all'epoca, ma noi ci siamo assustati quando abbiamo ricevuto quella comunicazione, non sapevamo cosa fosse, proprio non avevamo pensato al baracchino. Allora, mi senti bene adesso, Marco? Sì. Adesso sì, adesso la modulazione è più normale, ma prima eri... Allora, ti spiego. Allora, quel periodo lì, in pratica, ci voleva la concessione, la denuncia in questura dell'apparato, e poi dovevi in pratica dichiarare gli apparati che ci avevi tu a casa, senza essere in pratica agganciati, come parla chiaro la legge, tuttora, né di antenna né di alimentatore, cioè li puoi tenere, hai capito? Puoi denunciarli in questura, però li puoi tenere a casa tua come apparati da collezione, tutto lì. Il discorso è quello, che equivale sia prima sia anche adesso, tutto lì. E io cosa ho detto? Così ci ha detto, andavano denunciati tutti gli apparati, bastava non usarli, non utilizzarli. E vabbè, quindi molto gentile questo qua, Belfiore, mi ricordo sempre il nome, Belfiore, che era l'anno 85, forse anche 86. Mi sembra che adesso è in pensione comunque quello, comunque mi sembra non ci sia più. Ma comunque sia, la questione non cambia, è sempre uguale. Se tu, come me, c'è un apparato che l'hai denunciato in questura, come ho fatto io nell'87, come concessione, equivale anche adesso, non c'entra niente con queste storie cazzate che hanno raccontato, le macchie c'è, non c'entra proprio niente, hai capito? Perché uno che ha una concessione di 20 anni, non può andare a dirgli, per dire, cambiati la il baracchino perché la concessione non vale più. E ti l'ha detto, allora mi ritrovi tutti sul divieto, scusa, da quando ho pagato a adesso, a un certo punto. Ma non te lo troverò mai, perché non esiste. Il discorso è quello. Tutto di Marco. Capito? Adesso com'è la questione? Quindi io sono tranquillo, io ce l'ho dall'87 in concessione il Tornado 34S e me lo tengo. Quando verranno a controllarmi gli presento la concessione, la dichiarazione in questura di quello che c'aveva addirittura, io ho fatto due di quelle, non una solo di dichiarazione in questura, che c'aveva addirittura il Kenwood, eccetera eccetera, quello l'avevo lasciato la Maria, l'avevo fatto quando abitavo la Maria Manser, avevo fatto la luce in questura per un motivo lì, non è mai successo niente, ma comunque sia, la luce in questura del Tornado l'ho trovata da poco, e quindi equivale. Io l'ho fatta nell'87 e l'ho fatta del nuovo adesso, c'ho un tattica da poco, perché la luce, se ti ricordo bene, l'ho avuta fino a mi sono trasferito qua a Sarà una quindicina d'anni fa, quando ho preso la concessione, l'anno scorso, quindi ho fatto del nuovo, vabbè, anche se in ritardo ho fatto del nuovo, dunque vale e qui vale sempre quella sempre il tornado, l'altra radio, sempre il tornado, e l'altra radio, e qui vale sempre la legge, se te lo trovano dentro, per dire, non un mobile, in una camera che sia attaccato dal cavo di alimentazione e da cavo dell'antenna, lo puoi tranquillamente detenere, il discorso è quello. Punto, questo mio e altro, non lo posso manco sequestrare, non so l'altro. Però non monopolizzare, se facciamo passaggi falconiani, ma sono già cose che sappiamo, Antonè, non c'è bisogno che ce lo dici, dai, avanti squalo. I decreti sono quelli, non si possono cambiare, Marco. No, caro, i decreti cambiano negli anni, una cosa era 30 anni fa, ma poi ci sono stati nuovi decreti, vabbè, lasciamo stare. Vai squalo, non riprendere Antonemi. Il vecchio decreto, quello, è decaduto. Il nuovo decreto, adesso ti chiede soltanto di mettere le crocette nelle vari, quello che stai usando. PMR è una crocetta, quello mobile è una crocetta, portatile è una crocetta. Avanti. No, a me mi ha arrivato invece dalle poste, non è quel foglio che avevano fatto con lo celestino, mi ha arrivato un altro a me, compilato da loro, mandato via email. Infatti me l'ha scaricato mio cognato, e io l'ho compilato e l'ho mandato una copia solo, perché l'altra la volevo ritenerla io, la fotocopia di quello. In più pagare 12 euro, tutto lì, hai capito? Ho capito quello che stai dicendo tu, quello modello lì, anzi quel modello di modulo con le crocette, quello c'è anche, si scarica da internet, ma non è quello lì, è l'altro modello, quello che ho io. Senta, questo me l'hanno dato a me, non è che l'ho scaricato da internet, questo me l'ha dato alle poste, me l'hanno dato. E quel foglio lì è quello che mi hanno dato alle poste. Anche a me mi ha dato il foglio alle poste, eppure te lo faccio vedere, sono sicuro che il tuo è diverso dal mio. Tu c'hai quello modello che è celeste di colore, io c'ho invece quello nero, in bianco e nero, scritto a macchina normale, capito? E non ci sono scritte le crocette con le caselle, non ci sono scritte per niente. Io ce l'ho spedita, mi ero dimenticato di mandarci la fotocopia della carta d'identità. Allora mi hanno telefonato che volevano la fotocopia della carta d'identità. E con questo modulo che sai c'è dottore, non mi hanno detto niente, dice che andava bene, tutto a posto, tranquillo, per cui chi ci ha trovato alle poste e tutto, così che siamo tranquilli noi. Sì, a me a Bacchigio, io quando ho chiesto me l'hanno dato alle poste quello lì, non ho preso io, è scritta normale come foglio, non è celeste né nulla. E così ho fatto io, lo stesso modulo che avete mandato voi, solo che sono stato fregato io, perché cazzo, io ho pagato due volte la concessione quest'anno. Bastava solo pagare solo quella quota del versamento che stavo sempre pagando, mettendoci la clausola del versamento del PMR anche dietro, senza fare la domanda né niente. Invece io, me l'hai compilata tu la domanda, e invece ho fatto anche il versamento, me l'hai compilata tu. Forse in quel momento non ci siamo spiegati bene, per cui ho dovuto pagare un'altra volta, altri 12 euro ho pagato io. Così che bastava pagare solo quello del baracchino, però Non me ne ritorno di quei soldi, capito? Che, perché gliel'ho detto stesso quando mi hanno telefonato per la cartella, e dice quei soldi non li verrà più, non li ritorneranno, e già è così. Infatti lei bastava solo quei 12 euro del baracchino, capito? Infatti ed è così. No, anche a me hanno chiamato e mi hanno detto di mandargli la fotocopia della carta d'identità, io me ne ero dimenticato anch'io di quella lì. E gliel'ho mandata, mi hanno telefonato perché era tutta a posto adesso. E mi hanno detto auguri, arrivederci. Perché sono loro che ci hanno confermato tutto a posto, per cui siamo tranquilli. Ok, va bene, là. Marco, riprendiamo, va. Ehi, scusate che ero in bagno un attimo. Volevo dire, Gio Maria, ma tu avevi telefonato a Cagliari per conferma? Come? Tu avevi telefonato a Cagliari per conferma o no? Ehi, Tori ha telefonato, però mi hanno telefonato loro perché non l'avevo scritta la fotocopia della carta, capito? La domanda me l'ha fatta a Tore e l'ho spedita, però non ho fatto la fotocopia della città, allora mi hanno telefonato a Cagliari dicendo che la domanda era a posto, solo che ci mancava la fotocopia della carta e il resto era tutto a posto. Ehi, no, io purtroppo mi sono allontanato, non ho capito di cosa state parlando. No, per questa cosa Norma Cieri, tu hai telefonato a Cagliari o no? Sì, ho telefonato io. Allora, gli vecchi apparati non gli servono più a loro, devono essere marcati C'è. Hai capito? Chi vale la marca C'è? Loro ti guardano il cartellino dietro. Emologato C'è. Basta solo quello lì. Non è che dire che non vale quello, non vale quell'altro. Vogliono marcati C'è. Sì, cioè Pomponio, e quella è un'informazione che arriva da Cagliari. Allora, spiegami una cosa, perché da Cagliari a me non mi è fatta nessuna telefonata per dire il tornado 34S omologato che ho, la bellezza dell'87, non è più in pratica detenibile a casa, mi avrebbero detto, si prende un apparecchio nuovo, marcato C'è, strano. Quindi a un certo punto a me non me ne porta nulla. Quando vengo a casa, guardi, io la concessione ce l'ho da 87, quindi se pigliatevi l'apparato se lo volete prendere, vi dico, e poi voi denuncio per la protezione di debita, perché ce l'ho da 87 la concessione. Quindi se un ente dovesse cambiare le leggi, dovrei mandare una lettera, giusto come fa la RAI per dire eccetera eccetera. Come mai io ho fatto la concessione, non mi hanno mandato nessun avviso per cambiare l'apparato? L'avrei anche cambiato. Per quello che costa, gli ho detto, mi sarebbe costato niente, ce ne sono da 50 euro, quindi 60 euro anche rubati per dire, mancati C'è, quello che è. Gli avrei presentato loro, anche avrei fatto la nuova concessione, invece l'ho fatta. In pratica la concessione con l'apparato che usavo prima e nessuno mi ha detto niente, strano, quindi non lo so, questo lo vedranno loro nel momento opportuno, quando sarà il momento, non ce l'ho avuto nessuno, ma comunque uno di questi giorni andrò lì all'escoposto di Sassari, mi presento con l'apparato che poi vabbè a stasera non c'è più niente, la verità, ma perché è stato chiuso, ma ci sarà qualche ufficio naturalmente. Mi presento l'apparato e dico, guardi, io sono, c'è una concessione, non mi è stato detto niente, cosa devo fare? Se non mi dico, si compri l'apparato nuovo, va bene, pronto, e dico, mi prendo l'apparato nuovo, e chi mi restituisce a me i soldi che ho pagato di questi 2 anni, pagati per niente? Cosa faccio? Le regalo 24 euro, con 24 euro mi compro con il bistecche, scusi, non aver fatto la concessione e sei stato abusivo a un certo punto. Perché il ragionamento è chiaro, no? Allora, aspetta un attimino, cazzo, se tu hai pagato per ogni anno, 2 anni hai pagato, la concessione hai pagato. Nella quella del fuoco che hai fatto, è sempre normale, la concessione vecchia che c'è una volta, quella non c'è più. è il nuovo foglio che hai fatto che vale adesso, quello ti devi tenere, compreso con la ricevuta che hai pagato quest'anno. Quella dell'anno scorso non te la chiedono, diciamo quella di quest'anno se vendono da soldi, compreso. Ho pagato anche quest'anno, e sono 2 anni che ho pagato 2 ricevi, il discorso è questo, hai capito? Ho pagato 2 ricevi per 2 anni, compreso adesso, Fernando 34 è omologato, io c'ho la luce in questura di questo apparato qua, ma ti pare che io devo farmi incasinare così? Perché cosa? Per un apparato marcato c'è. Se ce l'ho dall'87 in concessione e ho fatto il rinnovo, perché non me l'ha scritto una lettera per dire guardi, signor da tal dettagli, questo apparato qua non va più bene in concessione, si prenda un apparato marcato c'è, con la nuova, come si dice? Adesso mi viene il nome, già mi hai capito comunque. Grazie caro, tu sì che mi camminevi. Posso? Buonasera, chi è entrato? Antone, le poste non ti stanno a chiamare da Cagliari a scrivere letterine per dire di cambiare apparato. Devi guardarti i regolamenti del MISE, cioè sta l'utente a interessarsi a vedere quali sono i cambiamenti delle leggi. Grazie a Dio c'è internet, e poi anche ci sono forum tra CB radiatori, se ne è parlato tanto, c'è gente che solo che tu non ne guardi. Mi arrendo, vai avanti chi è entrato. Io sto chiudendo e ci sentiamo più tardi. Ok, ciao a tutti. Ciao Salvatore, ci sentiamo. Salutate gli altri e poi mi dice Franco cos'è, perché non ho capito un tubo, quindi ti ha parlato Marco sopra. Faccio sovrappopolati, ci sono Franco e Coso e Marco. Franco. Ciao Marco, ciao comunque Gio Maria, Tore e Arduello. Allora Antonio, tu da quando hai fatto quella prima concessione che ci hai messo la radio FM500S, numero di matricola e tutto, prima si faceva così. E se guardi la concessione prima, era un libro, spiga, perché ce l'ho ancora qua. Ma dal momento che tu non lo paghi, quella lì viene annullata, zero, non serve più. La puoi anche buttare perché non serve più quella lì. Però hai rifatto la nuova, c'hai un foglio solo, c'hai. Un foglio e non c'è scritto né il numero di matricola della radio, perché non ci voleva. Perché in quel foglio, in quel muro lo diceva che potevi usare qualsiasi tipo di radio omologato, 40 canali e 4 watt, 4 visuali e basta, non c'è altro. Con ciò che in mano dall'87 da quando hai detto non c'è niente, quella lì è annullata, vero? Allora aspetta. Allora, io in pratica, quando sono andato via Verizidu, non avevo fatto più il rinnovo della concessione, e qui ci siamo. Però la luce qui sulla rimasta, di quella parte là, forse ho voluto abitare qua. È di coccio. Lo stesso apparato. Però non è arrivato più niente a me di questa parte. Ma io ho fatto di nuovo. Claudio. 2 euro. Non ho fatto un cazzo, la verità. Al limite sembra arrivato per dire un foglio da Cagliari per dire guardi questo apparato qua non va più bene, se ne prende un altro nuovo. Non è arrivato niente, hai capito tutto lì. Se adesso le cose vogliono diverse, va bene. Però io ho pagato la concessione, ti mando anche la fotocopia della concessione che ho fatto io, quello che ho scritto con l'apparato là, non mi ha detto niente nessuno da Cagliari. Se no avrebbero un limite con il vento, avrebbero detto guarda il signore così così, non va bene quello che ha scritto, ci vuole un apparato marcato c'è. Allora, cosa ti ha detto? Scusi, guarda, se non è più così, va bene, mi prendo un apparato nuovo, va fanculo. Per quello che costa, 100 euro, 50 euro, quelli che sono, avrei spesi. Tutto io, capito? Io ho capito a te, ma loro a te, quando tu gli hanno dato quella ultima concessione, gli hai mandato quanto è 2 anni fa, mi sembra gliel'hai mandato, non mi ricordo adesso, quando gliel'hai fatto. Capito, quando tu hai fatto quella lì, dai tranquillo, per loro, quando tu gliel'hai ferita, hanno ricevuto il pugno, allora gli interessa che ricevevano solo quel so, un anno di rinascio, no, è là, il rinascio non dirà nulla lì. No, no, è sempre glielo latte, e quindi sono a posto. Noi abbiamo fatto quello che ci hanno detto, no? Abbiamo fatto, siamo stati da poi. Pagato, abbiamo sempre pagato. Baracchini, prima, radio attacchi 3-4 domande, a chi ha chiamato Baracchini, io, sempre omologazione eccetera. Ah va, la mattina sicura, che ci faccio dire apparecchio nuovo, adesso ho delle nuove emulazioni e siamo tranquilli. La burretto, non esistono più quelle lì, quelle di prima. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Dilli qualcosa a tu. Cosa devo dire? Che di coccio, e quindi non devo dire niente. Ma Giovanni, non è una nuova omologazione, è che abbiamo voluto l'Europa, e cioè vuol dire Comunità Europea, quindi le omologazioni dei baracchini rimangono sempre le stesse, solo che ci vuole il marchio CE per la Comunità Europea. Tutte le norme di legge, tutte le normative sono passate in Comunità Europea e bisogna fare anche gli aggiornamenti sulle normative in telecomunicazioni. Li abbiamo fatte noi radioamatori, non ho capito perché noi CB dobbiamo protestare. La legge è così, abbiamo voluto la Comunità Europea. E uscire va sì, buonasera a tutti. Ma è così infatti. Ho preso questi apparecchi nuovi, adesso nuove omologazioni con la marca CE, siamo tranquilli, boh, tutto lì. Comunque buonasera Claudio, ben sentito, frate. Ciao Claudio, buonasera. Ciao bra, ma non solo quello, no Giovanni, non solo quello. Ci sono nuove normative di legge, ma nuove normative di legge per chi ha attività che qua non posso dire, mi spida il telefono, che deve aggiornare tutto con nuove documentazioni per la Comunità Europea. Si sta chiamando la questura. Posso? Prego. Allora, comunque è vero, Antone, la... non è che Cagliari ti telefona a casa o ti manda lettere dicendo che il tuo baracchino non va più bene. Cagliari non dà quel tipo di comunicazioni, però sta alla persona andare sul sito del MISE e interessarsi sugli aggiornamenti delle leggi. Poi guarda, se non è il MISE ne parlano sui forum CB e radioantori, parlano delle leggi nuove, delle modifiche dei regolamenti, capito? E sta l'utente a aggiornare. Anch'io non ci credevo, è stata una sorpresa anche per me, però per fortuna ero già munito di apparecchio a norme europee, 40 canali, tutto lì. Sì, vabbè, comunque a me non mi hanno comunicato niente, nulla. Tanto meno quando ho fatto la concessione mi è stata scaricata a me, quando l'ho pagata da internet, perché in pratica Giancarlo ha telefonato a Cagliari e a Cagliari non ha detto niente. Capito? Dice, metalo, dice l'apparecchio omologato che c'è a casa, lo denuncia, dice, mette quello lì e siamo a posto, non è che marcato c'è, il discorso è quello lì, ecco perché sono di coccio. Toccava a loro, cioè, essere chiari, se mi avevano detto a me, guardi, quell'apparecchio lì non è più a norma, avrei speso 100 euro per dirlo, mi sarei preso un apparato nuovo, come sto facendo adesso, tutto lì. Hai capito? Non è altro, ma se uno ti cambia le cose, non è che io voglio fare la telefonata su internet, perché fai conto che io internet non ce l'ho, in giornale non te ne mettono, quindi a un certo punto, siccome è andato mio cognato e ha scaricato il modulo lui, quello da compilare per fare la concessione, e non hanno detto niente, tutto lì, Marco, non peraltro. Beh, vabbè, comunque è vero, nel nuovo modulo non devi mettere né marca, né modello, né matricola. Devi dire solo, invece, possiede apparecchi portatili e ho messo sì, veicolari ho messo sì, basta. Franco, salvaci tu. Oh, cosa salvare ci abbiamo, oh yeah. Comunque, ripeto. 14 9, sai, devi fare come hanno fatto gli altri. Hanno preso un telefono, l'hanno chiamato, gli hanno dato informazioni, e uno non sa dove dire. Lui non si sa in giro. Lui non si dice che ha chiamato, ha fatto questo, ha fatto quell'altro. Sono tornato, è evidente che se non lo fa loro, è evidente che è giusto. Scusate che ho il telefono, mi ha chiamato mio genero. No, ma vi stavo dicendo, è una cosa un po' generale, perché anche per le attività commerciali ci sono alcuni documenti molto importanti, come la DUAP, come tante altre cose, per attività commerciali, che purtroppo devono essere, la norma c'è, capito? Addirittura l'ISO 9001, come si diceva prima, no, per tutte le conformità dei materiali, oggi deve essere rifatto il documento, a norma c'è, quindi con il timbro della Comunità Europea, perché altrimenti se ti viene un controllo della Guardia di Finanza e ti trova dei materiali che non sono a norma c'è, nonostante tu abbi la documentazione dell'ISO 9001, ti sequestra il cantiere, ti ferma il cantiere, cioè, ma vi rendete conto, abbiamo voluto l'Europa, purtroppo gli aggiornamenti sono quelli, e c'è andata di mezzo anche la telecomunicazione in generale, tutte le apparecchiature che vendono, i telefoni, qualsiasi cosa che oggi è in vendita deve avere il marchio CE, perché se non ha il marchio CE non è vendibile, non si può vendere, capito? E automaticamente chi l'acquista deve avere la documentazione CE, purtroppo è così, ma queste sono cose che sono nate da poco, cioè sono uscite da poco, magari non ci siamo documentati bene in generale, ma è una cosa, Antonè, che è così, non c'è niente da fare. Io l'Europa non l'ho voluta, Bisogna vedere se ci saremo ancora tra poco. Dipende dal governo che entra, diceva quello. Vabbè, lo so, abbiamo voluto l'Europa, noi ce la prendiamo in culo. Comando dei tedeschi, già lo sai, è la BCE, non comanda nessun altro. Vabbè, comunque non ci sono niente. Fra un paio di giorni mi sta mettendo la parte nuova, quindi sarà per un cane in culo, sarà tocca. Ne faccio la concessione nuova e concessione nuova. Pulisco il modulo nuovo con il nuovo modello dell'apparato e basta. E poi di nuovo altri 12 euro e sono tranquillo. E sarà per un cane in culo. Me ne dico un'altra, poi chiudo e vi saluto tutti. Allora, il 90% no, ma il 70% del materiale in uscita dal Brico che ha chiuso, dal Brico, Euronix, ve li nomino tutti e due, così lo sapete, è andato in demolizione perché nonostante fosse con praticamente la conformità di ISO 9000, 9001 e così via, per tutte i vari materiali ci sono le conformità di vendita, non si sono potuti mettere in vendita e quindi andati in demolizione proprio perché non avevano il marchio CE. Cosa vuol dire? Che erano materiali vecchi, di magazzino, di deposito, eccetera, e quindi nonostante avevano la conformità di vendita della vecchia omologazione, non sono stati messi in vendita perché non avevano la norma CE. E quindi i controlli delle varie autorità competenti hanno fatto sì, siccome una volta che c'è poi la... la cessata attività, chiamiamola così, perché c'è una cessata attività, ma c'è anche un altro tipo di cosa che qua non viene bene a dirlo. E siccome c'è gente che conosco molto bene, mi hanno raccontato questa storia ed è veramente una vergogna. I materiali sono stati buttati via solo perché non erano con la conformità, cioè ci sei? Alcune aziende stanno per chiudere, anche a Sassari, stanno cessando l'attività perché non riescono a mettersi in conformità con la norma CE, perché il materiale in conformità con la norma CE è molto più costoso e ci sono tante, ma tante, tante documentazioni da presentare. così ha deciso, così è detto. Buonasera a tutti, ciao Giammaria, Franco, Antonello, Marco e chiunque fosse in ascolto sul canale 23, che devo andare a portare il cane. Vai Giammaria, ti piega per due va. Chiatta, ciao, grazie, ciao, dai, vai, faccia così, dai, dai così. Quelli di prima servono più, bisogna metterlo da parte. O li butti e te li conservi, oggi non ti fai abbuddito, che cosa vuoi fare? Adesso siamo in regola, almeno siamo tranquilli. Ok, ciao Claudio, ci sentiamo, vai Marco. Eia, ciao Claudio, dai, ci sentiamo. Giomari, per io ho un televisore dell'86 qua, figurati che non ormai. Un sele, come funziona a me? Va così, infatti, per carità, ragazzi. Oh, io già la giro ritirati, tutta la base solita. Ce ne sono che ce li hanno. Ce li hanno, ce ne sono quelle che non ne hanno, allora quelle che non ne hanno, la marcazione li ho messi tutta la parte, così che a parlare non ci parla, parlo solo questi di adesso, boh, questo nuovo, mi basta solo questo nuovo. E sono tranquillo, boh, gli altri sono conservati alla parte. Capo bene se si ribotta e si va da buddito. Fa un po' anche le mogli con la marcia senti, si chiedono. Ciao a tutti, vado a farmi la doccia, ciao. Ehi, ciao giù. Ehi, infatti. Adesso se la marcia non c'è la marca c'è, non te lo portano via, così che. Ciao. Se si ribotta, arriva e cos'è? Cosa li ferma? Se non li fermo più niente. Vai Marco. Ehi, ciao Giulio. Ben entrato. Cosa volevo dire? No, non li buttare gli apparati, usali. Ricordati che da quella persona sono andati esclusivamente perché faceva TVI feroce e la colpa non era nemmeno sua, era colpa delle antenne fradice dei vicini, quindi non è un caso eccezionale che siano andati lì. Non è che vanno di casa in casa, no? E hanno altro da fare, più importante. Ma quello lo sappiamo, ma per dire no, già siamo, adesso siamo tranquilli ugualmente, anche se vengono, già siamo tranquilli, ecco lo vedo, qua la marca c'è, boh, e così via, avanti giù. Mi sto preparando per la luce, Giovanni, dai, continuate, no, stavo dicendo, adesso con la marca c'è, anche le mogli vogliono che la moglie sia marchiata a te. E adesso sono anche con la legge, cazzo. Non c'è la marca a sé, dietro no, o davanti, no, non la prendo, non è valida, là. Infatti, no, se non ci sono disturbi, se nessuno si lamenta, problemi non ce ne sono, rischi non ce ne sono. Comunque, avere un omologato fa già fa sempre comodo. A proposito di omologato, e questo omologato come sto dicendo? Quello che stiamo dando adesso è omologato la marca C. No, che la marca C, questo è omologato vecchio. Ho omologato nuovo, ho preso l'altro giorno, così che uso solo questo, mi basta, è anche troppo questo. Ci andrà bene Giulio. Se non andrà bene, andrà solo a te, tanto interessante non rompere il scatola a nessuno, è quello che conta, perché io capisco che il Natalino poteva avere anche le sue ragioni, non ci sono dubbi. Però si sa, era immaginabile che a lungo andare quello andava e denunciava, ma era normale, no? È una cosa normale. Per cui diciamo piuttosto che è stato sfortunato, e soprattutto sono stati scorretti i controlli, perché i controlli si dovevano fare anche a quella persona, non solo al Natalino, bensì anche a quella persona. Così si è fatto un compromesso, non si conviene così o male. Ma i signori hanno detto che avevano fretta, che dovevano fare altre cose, altri controlli. Lo so, sai cos'è il discorso? Che c'era anche il discorso che lui si tubava, quello di giornalista che abitava fino a lui, e che entrava nel computer, che entrava. Per cui quello sicuramente aveva avuto dei salti in paradiso, ed ecco che si gli applica per tutto è andato via. E io ho pensato questo. conoscenze, amici degli amici, già lo sappiamo come va a Sassari. Comunque, come ha detto Gianfranco, magari all'ascolto, lo saluto se c'è, ha detto è giusto che Natalino, che paga i 12 euro, si prenda un omologato e parli mattina, pomeriggio, sera e notte, poi se quelli hanno problemi, questa volta interviene, lui è in regola e controllano le antenne TV e se trovano cose irregolari multano gli altri, capito? Multano gli altri, non lui. Sì, infatti dovrebbe andare così, la procedura dovrebbe essere quella, però guarda, il discorso è sempre quello, la TV ha sempre ragione, guarda Marco, non ci sono dubbi, io ne sono più che convinto. Perché chi è che si permette di andare a controllare le antenne TV? Poi lasciamo perdere, dai, che ormai controllano sempre il trasmettitore, non l'antenne TV, ecco, quello è il discorso Marco. Va bene, dai, io vado a farmi la doccia, e prendi gli amalini, ci sentiamo dopo se si chiede, dai. Sì, ok, comunque Marco, non possiamo fare a mettere fuoco, io l'ho sentito e così come stava parlando stava facendo fuoco, per cui bisogna certe volte anche pensare a troppo, che meglio, o no? Ah, scusa un attimo, Marco, e poi c'è anche un'altra cosa da dire, che secondo me quello è molto importante, è fondamentale. Uno dovrebbe anche parlare bene al baracchino, perché lui parlava e lo sentivano dentro la TV, con quelle parole che l'aveva per abitudine. Ogni due parole dieci riparolacce e non andava bene, anche se erano parolacce ricorrenti in bocca ai sassarini. Però c'erano, e dunque quello andava a partire più di subito. Sicuramente così manca. Ah, boh, vabbè, un po' la si pure, ma... Comunque lui adesso ce l'ha un omologato, se vuole può parlare. Attenzione Callaghan, ci sei, batti un colpo. Ma boh, dai, vado a mettermi sotto la luce, ciao, a dopo. Ehi, ciao Giulio, boh, niente, non vuole nemmeno battere un colpo, non ci fida. Non lo so, quasi ha paura che tornino e gli mettano 600 euro di verbale. Ma se è omologato, Vincio, è a norma, che verbale gli devono mettere? Boh, non lo capisco, non devo ragionare certe volte, dai, vai Gio Marico. Marco, eia. Guarda, non parla neanche di niente, parla che deve essere a norma c'è, non ci parla, perché guarda, mi ho caricato il modulo, mi ho caricato, e non parla di niente. Hanno aggiunto solo che possiamo mettere anche il TMR, basta. Oh, vabbè, comunque c'è là un baracchino adesso, tutto super moderno, e non vuole parlare perché dice che teme che tornino e gli mettano una multa 10 volte tanto. Lascia la parecchia norma, perché dovrebbero mettere, casomai dovrebbero controllare le antenne fradice dei vicini, che sarebbe meglio. Infatti, va bene, una volta che vengono si controllano tutto. Comunque, niente, non c'è niente scritto che deve essere la norma c'è, niente, non lo dice. Dice solo quello che devi pagare, cose, le norme, a cosa va incontro, tutte queste cose qua. E basta. Poi in aggiunta hanno messo che puoi anche usare il TMR, oltre al CD, quello che è TMR, e lo devi preparare la casellina e basta. Poi, penso che sia un'altra sanzione in più a pagare in più di concessione con il PMR, poi non so, avanti a te. Eia, no. Io ho telefonato a Cagliari, avevo risposto una signora del reparto, non mi ricordo quale, ha detto no, non devono essere 12 più 12 euro, lei deve pagare solo 12 euro e usa tutte e due, proprio perché sul forum dicevano tutte cose contrarie, qua non sapevano dire un cacchio, qua a Sassari non sanno mai nulla. E allora ho telefonato a Cagliari e mi ha detto 12 euro, solo 12 euro e usa tutte e due. Così me l'ho detto. Fermo. Saluto Franco, dai, poi. Sì, ciao, salutoni. Sì, tanto è vero, io me lo sono messo in concessione assieme al baracchino, ci ho scritto io. Cassa vice trasmettitore di Debole Potenza CV, più, ho aggiunto, TMR. E ho pagato solo 12 euro. non mi hanno scritto niente, per cui vuol dire che va bene così. Ciao a tutti, dai, buona fame da lui. Ti prendi? Ok. Ciao Giulio. Ma è così, là, è così. Per cui quell'altra persona magari se in quel ricchio se è meglio, magari forse fa bene, là. Lascia passare un po' di tempo, poi magari se dovessi può anche iniziare, capito? Per cui bisogna lasciare calmare un po' le acque e vedere un po' la questione come va, capito? Tanto non è che si perda niente se non ci parla Marco, capito? Per cui lascialo fare, vedrà lui cosa fare o no, entrare oppure no. Così che sei così, vai Marco. Beh certo, sta a lui decidere poi se entrare o no, non lo possiamo obbligare. Bene. Vabbè, è sempre un macello, leggine, mamma mia, vabbè. Io per esempio per il contributo nella causale ho scritto contributo in quest'anno, contributo anno 2018, banda CB trattino PMR 446. Perché se no c'è il PMR professionale, se metti solo PMR potrebbero pensare, vabbè se sono 12 euro già lo sanno che è quello. PMR 446, e così ho fatto. Dal 2010 che faccio così. Aspetta, già 8 anni sono, mi Gio Marie. Anzi, se conti anche quest'anno sono già 9 anni che ho rifatto la concessione. Ma va bene così, la causale basta così, e per i baracchini e per i PMR, boh, basta, no, ma tu non devi fare l'edizione nemmeno, è così e basta, io ho fatto così e per cui mi hanno detto che era tutto a posto, anzi l'ho detto che avevo fatto un errore, che lo sapevo, ho dovuto pagare altri 12 euro per il PMR, infatti io non li ho pagati altri 12 euro, avevo già pagato quello del baracchino, però dopo Tore mi ha compilato questo nuovo foglio per il PMR e ho avuto anche il coso, come si chiama, ha compilato lui il bollettino e ho pagato e lui lo sapeva perché non me l'ha detto, ho dovuto pagare, infatti gli ho detto alla signora a casa, ma dice tanto bastava solo quello del baracchino 12 euro, tanto quelli lì dice che il più che ha pagato dice non lo ritorneranno mai, ormai sta pagato, però il prossimo anno dice paghi solo 12 euro ed è a posto, adesso tutto tranquillo, buonasera e auguri, boh. Ma tu te lo ricordi il nome di quella signora? Io non me lo ricordo, era proprio dal reparto addetto a quelle cose, non me lo ricordo come si chiamava, forse lo sa Claudio sì. È una signora, ce lo dovrei avere scritto perché ci abbiamo parlato un paio di anni fa con un'altra persona e me l'avevo segnato, però vai cerco dove l'ho messo io. Sì, era sempre quella dovrebbe essere quella signora, perché cioè, non è anziana, capito? Eia, io ho chiamato nel 2010, ho telefonato nel 2010, può darsi che sia ancora quella e comunque va bene. Ci stiamo anche preoccupando per questi... questa Europa, io non l'ho voluta l'Europa, l'ha fatta Prodi, quel mortadellone l'ha fatta, ma... Io sto chiedendo che sto andando a cenare, caro, che mi stavo a pieno fuoco le patate. Ehi Antonè, ceni presto, dai. Buona cena, di Dravessu. Grazie, caro, tu sì che mi cammi in nervo. Asco, per curiosità, più entrato è il corvo. Il corvo? Lo sai che no, il corvo l'ha toccato il culo, già al circolo vicino a casa sua, e gli hanno buttato anche le molettine, lo sapevi quello? L'avevo riferito la settimana scorsa. Cesso, che... mamma mia... come ti rubate i trattani? Guarda fratello, il fratello è zoppa, a quanto me l'ho detto, dice che adesso si viaggia col coso, col baccolino, hai capito? Evidentemente è stampato la scala, cosa ne so io? Stacco. Sì, ya. Beh, guardate, l'ha preso quella roba. Quale, dimmi. Ah, Franco sto parlando, di Franco sto parlando. Ah, a me stai dicendo, quale, Giovanni? Eia, guardate la vedi. Ah, no, quello non mi ha guardato. Non mi ricordavo più la sigla. Alla voi? Eia, dammela. Ok. Il presidente Barri, il presidente Barri è. Ah, sì, avevo scritto, aspetta. Sì, se avevi scritto infatti. Sì, perché ho girato il studio, non mi dico nel governo che avevo girato il studio. Ma già ce l'ho scritto, me l'ho fatto, adesso mi ricordo. Ok. Va bene, vai, signori, io chiudo. Vi saluto, grazie alla piccola chiacchierata, anche se breve fa sempre piacere, buon proseguimento serata a voi in famiglia. Marco, Richard, te, Nicolo e io chiudo, vai, buon proseguimento, saluto il circolare a tutti. Sei a Gio Marie, adesso tanto c'è il telegiornale e quindi buona serata, buon proseguimento di serata, buona cena, buon tutto, vai. Eia, purtroppo, peccato che la Media Globe l'abbiano terminato, così ho letto due giorni fa, terminato, deve essere che a quel prezzo se lo sono preso più persone, era un ottimo prezzo quello, e se no dall'Inghilterra 80 euro, 100 euro, ma stiamo scherzando. No, l'ho visto Media Globe, che è non disponibile. Lo metteranno, vuol dire che lo metteranno. E speriamo che lo riportino. Guarda, Media Globe fa ottimi prezzi ogni tanto, tipo anche per questo 3.900 omologato, l'avevo preso lì, 150 euro solo, e fa offerte ogni tanto, lì viene il Raptus, prende un baracchino e lo vende a poco prezzo rispetto agli altri. Sì, già ho visto che sono un buon prezzo, però io non devo prendere roba grossa, non me ne frega niente, roba con canali, che hanno un omologato, tanto per avere questa radio qua, là. Però un omologato ce li ho, però non sono norma c'è, però io da spendere poco lo prendo, tanto per averlo, la fissa. Sì, almeno per dimostrare in caso di... che non succederà mai in caso di controlli, ma... cosa vi volevo dire? Sì, quello è carino, sta piacendo anche a me, però io già sono dotato di quegli apparati, ma non c'è bisogno di comprare altro. I vecchi, bene o male, li ho venduti o regalati. Tipo l'FM500S regalato, il 548SX è venduto, capito? Tutto sta roba un po' vecchia. No, io quello lì, il 48 ce l'ho qua, l'unico veicolare, l'altro è un altro. Ciao Giovanni, comunque se ci sei ancora, sentiamo. Sì, infatti, guarda, tirate le somme, potremmo avere anche un baracchino con un canale, massimo 2 in AM, non ci serve altro per la 27, tanto propagazione non mi interessa più. E quindi... poi molte cose non si vendono, non ne vuole nessuno, ho messo forum radioamatori e CB, non Roger K, in due mesi nessuno ne ha voluto, e allora li ho tolti. Pazienza, me li porto nella tomba. Sì, guarda, ti dico una cosa, se non le vende, guarda a me, se mi arrabbio tanto, non mi frega tutto e niente, ma rimangono qua. Saranno alla fine, non mi piace solo per le due nuovi perché ciò che sono professionali, ma solo per quelli lì, sono nuovi nuovi. Eia. Ah, servirebbe un Rosvetro per la 27 funzionante, però di soldi non ne spendo più. Non ne spendo più, mi piaceva la KP1000, ma boh. Io avevo la KP201 ZG e i watt li segna abbastanza giusti, ma non mi segna stazionaria, lo sai. Guarda sul 120 e oltre, non, me ne segna pochissime, non è normale. Perché poi con uno buono ho fatto il confronto e non segna stazionarie. Comunque la roba ZG è cacca. No, io ce l'ho, quello che sta dicendo tu, la KP1000, è anche a condatore quello lì. E ti dico che accorda bene, no, almeno mio, accorda bene e segna bene. Quando ci sono stazionarie se ne segna, se no ce ne rimane a zero. Sì, sì. Quello me l'ha fatto provare Pomponio, il suo si chiamava ancora TM1000, poi hanno cambiato il nome in HP1000. Io avrei voluto solo un Rosvetro, e tanto stazionario non ve ne è, e sarò costretto a prendere tutto, Rosvetro accolatore, che mi pare la HP1000 costi sui 130 euro, trovandolo a prezzo onesto. E insomma, avrei preferito spendere molto meno, ma pazienza. Pazienza. Allora questo l'avevo preso il braccio, ma era nuovo. E ti dico che è bellissimo, ce l'aveva l'allenatore, ce l'aveva, e ti dico che non avete sentito di averlo preso. Guarda, se io volessi un Rosvetro, ma un Rosvetro con le palle, proprio perfetto, affidabile, ti dà addirittura la potenza P&P effettiva, come si chiama? Daiwa KP801, come si chiama? Mi pare, quelli per la banda amatoriale, però fa anche la 27, capito? Gli aghi incrociati, c'è un display bello grande, e quelli sono veramente precisi, molto molto belli, feroce, fa solo Rosvetro, capito? E guarda, metro. Io ne ho due di quelli lì, no, quelli che stai facendo tu. No, uno per la KF e uno per, diciamo, 27 HF, no, e uno per 2U. È molto bello quell'apparecchio, e costa intorno alle 150, almeno. Poi è uscito, c'era la KP801, mi pare, non mi ricordo il nome, se era Daiwa KP, insomma, quello che è uscito il modello 901, che sostituisce l'801, non so cosa cambi, forse l'estetica, i componenti, non lo so, costerà di più e boh. Io ho il 102L, il CN 102L, e della, questo qua è, va bene per la 27, per la KF, e il CN 103L, che quella è per le altre palle. Aiaia. Sempre soldi, poi per questa 27 non mi viene voglia di non spendere più di tanto, mi basta ormai, basta microfoni, basta strumenti, basta tutto, non sappiamo nemmeno se dura sta 27, quando sarà vuota del tutto vedrai che la riassegneranno a qualcun altro, a qualche altro servizio, magari radioamatori. Guarda, sono in quei due punti, mi sono usciti tutti senza guardi 250 euro, tutti quei due soldi. Non lo so, la roba di qualità si paga. Oh, bello, perché ti dà anche la modalità picco, oppure AVG oppure P&P, non so cosa voglia dire, picco, vabbè, già lo so. Ti fa vedere effettivamente i watt di uscita anche quando moduli, capito? E i Rosvetro ZG non ce l'hanno, ci mancherebbe. È roba proprio, ZG è roba, Vabbè, a parte i microfoni, l'MB più 4, più 5, quelli vanno ancora bene. Si salva anche qualche linea retto, però per gli strumenti, vabbè. Così, bisogna comprare roba grossa. tipo la KP1000 per avere uno strumento decente, dai. Io invece avevo il TM999, era un Rosmer calcolatore veicolare, no? Quindi piccolino, per accordare ci aveva due potenziometri, pensa, anziché tutte quelle lamelle distanziate, no? E ne ho bruciati due, proprio non durano niente, è robaccia mia, robaccia, robetta. Sono piccolini quelli, sono roba, no, uno io ve la salì, e mi fa due usi, sì, sì, quando vanno bene per misurare l'antenna su, va bene, basta, contento, e per averli, se non portato un roba più grande, vanno bene così perché sono piccolini, ma se no alla fine non è che siano tanto questo quello che è. Eia. Va bene, ma inizia il telegiornale adesso, quasi quasi ci salutiamo, dai, alle prossime. Anch'io comunque non sapevo bene come funzionava sta storia dei baracchini non omologati, boh. Io so solo che sono rientrato nel 2010 e quindi ho comprato roba nuova, e tutta norma c'è, ma ogni tanto cambiano, fanno pasticci, boh. Tutte ai danni del consumatore, capito? Infatti, anche se è rientrato nel 2010, allora c'hai un modulo uguale di tipo al mio. Io non c'è scritto neanche che c'è la cosa del PNR, non ce l'avete scritto lì, perché io ce l'ho, il vecchio modulo. L'avevo fatta io nel 2012. Eia, però, ma io sono rientrato nel 2010, Io ho modulato dall'84, sono entrato fino al primi anni 90, 93, 94, forse 95, poi mi sono rotto le scatole, non c'era più il gruppetto e ho abbandonato tutto. Per 15 anni ho abbandonato tutto. E poi mi è venuta la curiosità, ho provato ad ascoltare con i vecchi apparati, c'era qualcuno, insomma, proviamo piano a entrare, insomma si formavano le ruote sul 10, insomma qualcuno c'era sopravvissuto. Pomponio poi non è mai mancato, Pomponio è nato con la 27 proprio. A me l'hai iniziato tu a modulare la prima volta? 1984, estate dell'84, appena abbiamo cambiato casa, la prima notte d'estate col portatile da dentro casa, che ho beccato Paoletto. Sto guardando ancora, eccolo qua, 1980, allora il 12, 1990, 89, c'è la concessione di ghiaccio, qui c'è di lì, cosa c'è scritto qua, ma qui non c'è. Nell'85. Eia. Naturalmente poi noi avevamo un gruppetto nostro di ragazzi giovani che parlavamo sul canale nostro, insomma. Ero abbastanza timido, poi avevo 13 anni nell'84, ero anche abusivo, non potevo. La concessione l'abbiamo fatta nell'85 perché per pochi mesi, cioè ci mangiava 6 mesi e allora l'abbiamo fatta nell'85. E mi ricordo che era come avere il porto d'armi, un bel di documenti, ma per carità. Sì, è vero, capisci, tutto cantare, marca la bollo, un casino c'era, sì, è così. Addirittura nell'ultimo giugno sono tutte le frequenze, da 1 a 40, diciamo, quelle di dobbiamo usare noi. No, nel mio disciplinare ci sono dall'1 al 23, lo sai, 23 canali solo c'erano nel mio. Guarda, se avessi WhatsApp tuo ti avrei mandato la mia concessione tutta, che io l'ho acquisita allo scanner e l'ho messa anche su Roger K, dai. Guarda, qui è, qua dice, guarda, nell'ultimo turno tutto. Dalla 26.965 alla 27.405. No, da me era diverso, era un po' diverso. Tu c'è, tu Roger K lo leggi? Roger. Tu il forum Roger K lo leggi? No, negativo. È entrato. Ehi Giulio, guarda, se tu vai su Roger K, Roger K sul forum e cerchi, su Google mettilo, Roger K, e scrivi cara vecchia concessione, quello è un post che ho fatto io e si vedono tutte le foto della concessione, le clicchi diventano grandi e vedi tutto il disciplinare, capito? Tutto vedi. Ovviamente è un po' per la privacy, l'ho occultato un po', no? Firme, cose, tutto occultato. Vai Giulio. Ok. Siete ancora giovincelli allora voi. Io, febbraio 1972, quando è il mio ingresso in frequenza, abusivo, perché eravamo abusivi allora. Poi nel 74 il povero Macallè mi aveva dato il bono e io ho compilato la concessione e l'ho scritta qui a Cagliari. Per cui si può immaginare, fa un po' il conto, però se questa io ci sono da febbraio 1972. Ok? Allora ci va. Grazie, una cosa è giù, che non so più grande di noi, eh. Ah, bene, ci sono dubbi. E io ne ho costruito 76, per cui vi dico come minimo 15 anni. Sì, da 76 a 74 c'è una bellissima differenza, sono già 12 anni in più. Purtroppo io ce li ho e non mi ascolta nessuno, non me li può ascoltare nessuno. Sono andato a via all'anagrafe per vedere se mi ascoltava, niente da fare. E me lo pagando, perché hanno voluto fare il minimo ascolto. Io ne ho solo 46. Io sono 30 anni più grande di te. Eia. Se ci arrivo pure, non lo so. Tu pensa che ho una figlia io che è quasi contro te. Vabbè, non è a 46, è un po' di meno. Ma comunque io, quando tu ancora non mi hai arrivato, io non ti ho sposato. E cosa ci vuoi fare? Sono nato prima, pazienza, no? Che vuol dire? Beh no, infatti, beati i bambini che nasceranno adesso, che vedranno delle meraviglie elettroniche, quando non ci saremo più noi. Io penso che la gioventù d'oggi non hanno la minima intenzione di entrare in radio, nella maniera più assoluta. Altre cose tecniche sicuramente sì, tipo computer, telefonini, eccetera, eccetera, ma baracchino o radio di terra di testa nella maniera più assoluta. Ormai non c'è più nessuno che si affeziona a questo tipo di uomini. Avanti fra. Sì, noi l'abbiamo, diciamo che io l'ho vista quando ero militare, l'ho vista questa roba qua, poi avevo qualche amico, avevo degli amici che ce l'avevano e mi ha incuriosito, solo quello lì, lo giù, ma non tanto altro. Dicevo, quello di poco qua, quasi Giulio, se ne fai una volta intenzione alle tariche a Marco. In effetti è così. Tu pensa fra che io ho costruito la prima radio galena che avevo appena 14 anni, 60 anni fa, 62 anni fa, e funzionava, e cazzo che funzionava, e ce l'ho ancora. Dunque non è un problema, solo che oggi, siccome ho dei media, ormai non ci sono più trasmissioni, e questa radio galena prendeva tre stazioni, prendeva primo, secondo e una vecchia francese, mi ricordo, anche non mi ricordo se era Radio Monte Carlo in francese o cosa era, ma non credo, però comunque una stazione francese. E tu lo sai, no, Radio Valena è una radio differente, senza alimentazione, senza corrente elettrica, senza batteria, niente, quindi solo esclusivamente con le onde radio funzionava. che prendi qua? Io ti puoi fare io via che sta giù. Ma è... Vabbè, io in Italia non è... Già ne ho avuto tante, però... Tutta roba... Vecchia, no. Qualcuno sì, l'ho avuto, però poi... Non mi affidavano la radio vecchia. E prendiamo sempre roba nuova qua. E in modo che riuscivo anche a vendermela poi, come ho fatto sempre. Aspetta, quanto tempo però dall'84. È il primo che ho beccato, ti ho detto Paoletto, ha cominciato a chiedere ma sei peloso nelle gambe. E io mi sono guardato mamma e lei, tieni il gioco, reggi il gioco, a vedere cosa ti dice. E ti posso fare il gioco? Tutti ci sono finiti, tutti i nuovi entrati, giovani, giovani, giovani. Sì, ma tu pensa che da qua Paoletto, quando io sapevo, prima lo sapevo chi era, poi quando me l'hanno detto, non ho mai conosciuto di Cartola, solo in radio. Ma lui si aveva tre di mattina, erano, e poco a poco lo, ma è anche brutto dirlo quello che faceva in dieta. Il microfono lo teneva, ore, tutto è schiacciato, a volte io guardavo la radio, se non ci ritrovavo. Eia. Paoletto, io mi ricordo che nell'84 aveva 29 anni. Non ho capito molto perché una questa modulazione, forse non so cos'è. Allora, ok, ma io mi ricordo che c'era anche un'altra persona che quando prendeva il microfono in mano si dimenticava di mollarlo. E questo era un ex arbitro, un ragazzo che faceva anche l'arbitro di calcio, faceva Marco, parlo degli anni 70. Noi, tanto è vero, parlavamo con lui in quel canale e poi facevamo questo anche in un altro canale. Ritornavamo anche dopo un quarto d'ora e 20 minuti e lui una volta è rimasto con il microfono schiacciato, sempre parlando per oltre 50 minuti, si può immaginare. Noi avevamo tutto il tempo di parlare e fare questo in altri canali. Ogni tanto ritornavamo lì dove era lui e lui sempre parlando, sempre continuando, eccetera, eccetera. Esso Maria, e chi è Falcone 2? No, forse quello lì, non mi ricordo come si chiama il nome, non me lo ricordo, però da qualche parte non mi ha benedetto, siccome io un brogliaccio dove avevo annotato tutti i nomi e i nomi anche di frequenza dei vincitori. Di fuggito e lo voglio trovare, se riesco a trovare, tutto mi ricordo anche tutti i nomi di allora, ma erano, senza esagerare, non meno di 500 persone annotate sopra questo brogliaccio o Marco. Caspita, prima della concessione era, mamma mia, una fifa modulare. Magari mentre modulavi di notte ti bussavano alla porta e non sapevi chi era. E magari era il vicino che ti chiedeva il sale, roba del genere. Ne ho lette di storie. Che si alzavano le gran plenne quando era buio. certo. Poi ne avevo anche un altro di brogliaccio sempre. E avevo annotato tutte le parole stravaganti che dicevano, nel senso errate, no? Tipo che so io e quante per no. Ecco, parole del genere. Anche il rosmetro, anche che parlare, rosmetro, rometro, parole del genere, tutti gli errori. Aveva, ecco il nome accanto chi era, l'individuo che aveva detto la frase sbagliata. Avanti, fra. Io ci vuole un registratore, non è che però che mi avevo in chiacchietta. A parte che, vabbè, ci sono quelli che hanno per dire come la R, Muscia e via, che usano le quelli che sbagliano. Ma ci sono anche quelli che sbagliano a proposito. Ma è appunto, infatti facevamo sempre disastri, vabbè, comunque sbagliamo tutti, abbiamo sempre sbagliato tutti, però c'erano quelli più ignoranti, per carità, proprio a livello di alfabetismo o Marco? Vabbè, adesso già c'è qualche errore di qualcosa di pronuncia brutto, tipo mangevamo, andevamo, telefonevamo, invece non è quella la pronuncia, però è un coso sardo quello, modo di parlare di sardi, anziché dire mangiavamo, telefonavamo, tutta la E mettono, capito? Sì, perché il sassarese viene rimpiazzato, il sassarese l'ha introdotto in queste parole italiane, no? Le ha trasformate, però noi ormai lo capiamo che il significato è sempre quello, però per dirti come stanno le cose, ma comunque non è un problema quello, non è quello che conta nella vita o Marco. Sì. Le persone, soprattutto di una certa età, che fanno i giorni, non mi sembra che sia così grave, perché prima erano quelle i momenti di vita, e soprattutto la scuola era quella che hanno conosciuto e per cui non è che possiamo assolutamente nemmeno criticare o fra, avanti. Ciao fra, grazie anche a te per la chiacchieratina, dai, ci sentiamo, buona cena, e anch'io sto aspettando che arrivi la pizza qua per cui non so quanto mi trattengo ancora. Avanti Marco. Ehi, ciao Franco, dai, già ci sentiamo le prossime. Vabbè, orrori di pronuncia, di cosa, come dire, verbi, non, li ho sentiti anche dai radioamatori, radioamatori che parlavano anche bene, cosa, cioè una bella voce, tipo, che ne so, in HF, no, non gente di qua, roba continentale, no, tipo se l'avrei saputo, e io, se l'avessi saputo, e io poi con la madre insegnante mi, a forza me la fate imparare quelle cose. Anche quello è vero, non pure quello, ne l'ho imparato io a lui a fare così. Ma di queste cose, sì, ripeti, hai ragione, se ne sento ancora oggi, perché lui, se ne sentono tanti, o Marco, ne abbiamo sentito anche di recente, no? Qual è il problema? Comunque, va bene lo stesso, questo problema. Sì, ma anche questi giovinastri ogni tanto vanno a intervistare nelle discoteche, no? Mi dicono, che ne so, l'imperfetto è il verbo avere, no? O il passato remoto, e quelli parlano il futuro, io avrò. No, mamma mia. E la maestra mia Sganaccioni me le faceva imparare, lo sai queste cose, a Scapaccioni, però è stata una buona maestra, devo dire, e anche quella, l'insegnante delle medie, è stata una buona insegnante, che ne dicano gli altri che non studiavano. Beh certo, ma in effetti è così, la maestra sicuramente è sempre preparata. Per quanto possa sbagliare anche lì, però è preparata, non si può dire no, perché se no non avrebbe fatto l'insegnante, ci mancherebbe. Oppure quelle persone che dicono ancora oggi, mi sento, dormito è, dormito, anzi dormito solo, cose, vabbè, comunque ci passiamo sopra perché tanto sappiamo com'è il sassarese, come parlano. Io ogni tanto lo dico per scherzo, no, quando già ho detto qua, dove eri? A Perichella, io ero dormito, gli dico, capito? Ma già lo saprà, no? Che no, che è detto apposta. Va bene. Poi a domani devo andare a fare questa risonanza magnetica, così mi dicono di che morte devo morire. Bobo, non so cosa ne uscirà. Cosa ne uscirà? Marco, se ci trova qualche problemino, non ci sono problemi, se la non cura è basta. vetro che è previsto. E c'è, insomma, la tua presenza. Non ti allarmare così tanto. No, vabbè, un po' di problemi negli occhi. Problemi agli occhi, speriamo che con un po' di laser si possa risolvere, medicinali, non lo so, o al massimo un'operazione, vediamo cosa mi dicono domani, che poi non lo dicono domani fanno la risonanza e poi ti mandano il referto. Sì, infatti dopo qualche giorno, a meno che non vai a pagamento, allora però se vai lì per con la catapulta o meglio con la sanità, non ti danno subito la risposta, prima devono fare questo. Sì. Ehi. Bene. E quindi vediamo cosa ne esce, da. Certo che se si fa qualche operazione spero si faccia a settembre, non col caldo in estate, mamma mia, no. E poi me la vorrei un po' godere questa estate, caspita. L'anno scorso a metà l'ho fatta l'estate, perché poi sono arrivate quelle ondate di caldo estremo, una dopo l'altra, ondate, e io me ne stavo a casa perché c'era troppo caldo. Cioè non mi devo far venire una sincope, no, a andare al mare con quel caldo. Lo dicevo, ci mancherebbe. Vorrei vedere. No, ma intanto sei tranquillo che se per caso devi fare così qualche intervento eccetera, non ti chiamano subito, passeranno mesi, perché funziona così. Forse in qualche paese, che so io, forse l'alghiero, magari fanno un po' prima, ma qui a Sassari stavo leggendo l'altro giorno le visite, sono le persone che sono in attesa per fare delle visite, addirittura non intervento, ma addirittura solo la visita. Se parliamo di intervento, poi passano mesi e mesi, per cui non ti preoccupare che non ti chiamano subito. A Uccieri ho fatto tutte le analisi, tutte le prove degli occhi, insomma, tutti gli esami. E forse si tratta di Uccieri, non lo so. Però se ho la possibilità di fare la Sassari, lo faccio a Sassari, perché questo di andare e vieni a Uccieri non mi piace. Non mi piace, è una seccatura, capito? Vabbè, si vedrà. Allora, l'occhio destro c'ha la parte destra oscurata, capito? Vedi, metà immagine, a sinistra, l'altra metà non si vede. L'occhio sinistro invece è offuscato, vedo un po' offuscato. Credo fosse roba solo di occhiali, ma forse c'è qualcosa al nervo ottico. Oppure alla retina, qualche maculopatia, non lo sanno manco loro. Devono tirare le somme, capito? Speriamo non sia una sofferenza al nervo ottico, se no va bene, vedranno loro, dai, già se ne intendono loro. Certo, glielo chiedo. Ma non è che avrai anche, vabbè, anche i giovani ancora, non dovrebbe essere, quindi non è che avrai qualche cataratta dopo lì? È possibile comunque, anche alla tua età, che possa verificare una cataratta? Ah boh, non mi hanno detto niente. Non mi dicono niente, da quando ho fatto i vari esami non mi hanno detto nulla. Vorrei sapere qualcosa, cosa c'è, cosa non c'è, vabbè, poi si vedrà, dai. Vabbè, bisogna risolvere le cose, se no poi peggiorano. Quello sì. Bisogna controllare, è normale. Va bene, dai. No, perché se è così la catarata, un po' di offuscato molto può essere anche per questo, ma è un vero che si crea davanti al cittadino, ma quello, guarda, se non sono con la mattina, la sera si vanno a casa, già si vede, perché è una fettina, una grande. Chi è? Ciao Marino, tu sei? È una radio, un vocione hai, un vocione. Fai un altro passaggio così ce lo dà anche Giulio. Ok, ciao Matti, ben entrato. La radio non è molto chiara, è cupa la radio. Nemmeno il segnale non è un granché, o Matti, avanti. È cupa. Diciamo che non è nemmeno molto forte. Già si capisce quello sì, ma poi anche di segnale mi sa che vado basso e sei intorno ai 6-7, non di più. Perciò qualche problemino c'è. Ah, ho capito, magari è anche interno, oppure è messo all'esterno. Ho capito, basso, dovresti fare, fatti una carne da pesca, o come ho fatto io, o fatti. Nel computer ci sono tutte le misure, non puoi sbagliare perché c'è scritto tutto, per filo e per segno, di come si deve fare. È leggerissima, senza radiali, senza niente. Qualche metro di filo coassiale e qualche metro di filo elettrico, da 2 metri o 3 mm. E ti fai una canna da pesca e guarda, funziona bella vita. Io la sto utilizzando in questo momento, anche il giorno scorso, aspetta, ho parlato anche all'estero, con le stazioni dell'estero, e per cui mi sentivano bene, nonostante che è bassa, è molto bassa come posizione l'antenna, non è nel solito posto dove avevo prima l'avanzo battuto, vai battito. Guarda, in questo passaggio quasi non ti ho capito poche niente di quello che ha detto. Se hai qualche problema vieni, ti vedo io tutte le misure e così vai direttamente a fare il lavoro. Guarda, pochi metri di cavo, si compra una canna da pesca da Decathlon, costa 16 euro mi sembra che costa, una cosa del genere, lunga 7 metri. Ti fai una bobina, ti fai, ti spiego come, e poi un filo e vai alla grande, guarda. Pensa che l'ho fatto fare ad un amico che noi ogni tanto ci sentiamo ed è sempre benissimo. E anche lui non ce l'ha piazzata in alto, ce l'ha addirittura dentro casa attaccata alla facciata dell'abitazione. Tipo come quella di Natalino, mi dà che ce l'ha installata. Però è bassa perché lui abita al piano sotto e sopra c'è un altro piano per cui attraversa la finestra di fianco naturalmente. Di sopra ed è che non aveva la guida, ma poi dai, ti devo lasciare perché devo cenare, dai, è arrivato il momento. Ciao Battiglio, provvede in tutto, poi casomai se hai voi qualche informazione ti trovarmi già lo sai dove te la do. Ciao Marco, grazie per la chiacchierata ad entrambi, dai, ascolto il tiranino e dopo di te chiudo, vai Marco. Sei a Giulio, dai, sentiamo le prossime, un po' stanco sono, mamma mia, poi domani mi devo alzare presto, ci sentiamo le prossime, dai, buon tutto, buon proseguimento di serata, vai Bacchisio, eia, Bacchi, qua la radio non è malaccio, questo baracchino riceve più acuto, e quindi qua non è malaccio, sembra la voce tua, diciamo, il vocione tuo. Io capisco il 100% del passaggio, poi arrivi bene, arrivi Santiago 7,5 qua, ma si chiama Midland M0, caspita, sono rimasto un po' indietro con i baracchini, dai. Ehi Abacchi, comunque arriva qua, da 7,25, 7,5 già arrivi, per me va bene, dai. Ehi, ciao, buona serata, ciao, buon proseguimento.